gondola su un'altalena e sembra quasi voler spiccare il volo, sembra ignorare ciò che la contorna. Vede oltre l'orizzonte, dove il mare curva la schiena sulla terra, la terra. Candide di luccichio che abbaglia come fa la neve al sole, vesti che svolazzano e non coprono più, gambe che l'accompagnano, il movimento fanno girare la mia testa, la testa. E percorro questa strada per me nuova, e scanso buche vecchie che non ho fatto io, e cerco qualcuno che mi dia una mano, e invece tu vuoi fare da sola, e vai dentro un sogno che non hai fatto mai, dove le ombre ti inquietano perché hai fantasmi, tu credi ancora e ti muovi con circospezione, e le paure che ti gelano l'aria e la pelle. Esci da questo sogno che non ti parla, di me che ti stringo la mano, io che non vedo che te, mi consolo così. Mendicanti che ti abbracciano per solo un soldo che tu gli hai donato, e ridono come a sperare che può cambiargli la vita, si accontentano di poco, e l'estate calda la dormono sotto le stelle, e se loro vivono senza pensare sempre al dolore che li aspetta in fondo alla strada che non è la nostra. Tu cerca la vita che porta al di là di un guado, oltre cui c'è terra nuova e una nuova storia. E vai dentro un sogno che non hai fatto mai, dove le ombre ti inquietano perché hai fantasmi, tu credi ancora e ti muovi con circospezione, e le paure che ti gelano l'aria e la pelle. Esci da questo sogno che non ti parla, di me che ti stringo la mano, io che non vedo che te, mi consolo così. E vai dentro un sogno che non hai fatto mai, dove le ombre ti inquietano perché hai fantasmi, tu credi ancora e ti muovi con circospezione, e le paure che ti gelano l'aria e la pelle. Esci da questo sogno che non ti parla, di me che ti stringo la mano.